Odio stare in coda, odio la tua faccia più di una versione in prosa. Ho le bolle nel cervello perché sento troppa merda iosa. Ed odio il resto di riflesso per la stessa cosa. 01 ciuri è l'ossessione morbosa da rima stilosa. Racconto di una vita che mi ha messo alla prova. Fa culo chi odia se non trova questo nome tra gli artisti di moda. Conto gli amici sulle dita di una mano, verso nell'arcano quando sfonda il profano. Brucio lo stipendio, incendio come propano. Prova a starmi dietro, ciuri dopo. Io non sono come chi va in TV. Io non sono, no, come mi vorresti tu. Non sono normale ma paranormale. Ho il rap micidiale, forza vieni a stare. Allora dissami, mi credo chissà chi. Dissi chi? Ho versi come dei missili. Dipende da come cazzo ti districhi. You know my shit. È veleno che senti qui. Z-E-R-O più T-E-S bro. Le vostre teste so, seguono il tempo della mia ossessione. Quindi sulle mani per lo show, azione. Ho la fissa per il rap, sai perché? Perché cura l'ossessione anche più del prosa. C'è il demonio dentro me, non si tiene se. Sente in giro chi lo fa per moda. Tu non farmi la morale, no, non ci provare. Resta tutto uguale, tu dirai che cosa. Questa vita fa cagare, lascia fare, non mi giudicare. Seguo la strada per cosa. 01, ok, test. Oh, the Lost Mixtape. Yo, Rovura Bros. Underground Solution. Yo, Frari, faccio hip dopo happy. Mi trip su ogni track di Gidi come Das con gli effetti di un blunt. Qui la Tiena Pawantric al gran final con gli extra sensori che mobilizzano ogni jump. Yo, odio come Ale chi mi dice cosa fare, cosa dire per cercare di attirare. Sente male se tu mi segui buono, altrimenti pace. Se test non ti va, magari Miki ti piace. La gente pensa che si vada forte e rallenta. Punti sulla quantità, ma non sulla qualità. Non parlarmi di fit in modo che il mio pezzo renda. Fidati di me, odio la virtualità. Remember. Mi guardo attorno, vedo troppa gente. Viaggio nelle immagini extrasensoriali della mente. Neanche lontanamente mi avvicineresti a chi ha già un nome. Io ho il minor numero di arresti e me ne foto delle foto. Tanto cotto lo son troppo, da qua sotto faccio fuoco quando tengo questo mic. Esco cotto se arriva al numero 8. Livello di amaro doppio, dopo noto che non sono mai stato qui. E sono solo lento, sono sonnolento. Esco, prendo vento, sventio il rendo che ti accendo. Prendo il tempo e tenta star dietro ad ogni argomento. E tenta di capire qual è il giusto movimento. Ho la fissa per il rap, sai perché? Perché cura l'ossessione anche più del prosa. C'è il demonio dentro me, non si tiene se. Senti in giro chi lo fa per moda. Tu non farmi la morale, no, non ci provare. Resta tutto uguale, tu dirai che cosa. Questa vita fa cagare, lascia fare, non mi giudicare. Seguo la strada merdosa. Ho la fissa per il rap, sai perché? Perché cura l'ossessione anche più del prosa. C'è il demonio dentro me, non si tiene se. Senti in giro chi lo fa per moda. Tu non farmi la morale, no, non ci provare. Resta tutto uguale, tu dirai che cosa. Questa vita fa cagare, lascia fare, non mi giudicare. Seguo la strada merdosa.